Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione dalla parte degli altri animali, per provare a immaginare una società non violenta a tutto tondo, sia all'interno della nostra specie, sia nei confronti degli altri viventi delle altre specie. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Tu notte cases Hamas, tu notte cases Hamas, con un torero. Non te casas con un torero, non sposarti con un torero, cantava la mitica Raffaella Carrà quando era nei suoi cenci. E in effetti la cronaca recente le dà ragione, dal momento che nel giro di 2 mesi sono morti 2 toreri, uno in Messico e uno in Spagna, incornati da tori durante 2 corride. In una prospettiva antispecista, un raffronto statistico tra le morti dei toreri e quelle dei tori non avrebbe storia. Era dal 1985 che in Spagna non moriva un torero, mentre di tori e di cavalli ne muoiono almeno uno per ogni corrida. Nelle ultime 2 puntate vi abbiamo parlato della morte del torero, della realtà che non viene mai rivelata sulle torture subite dal toro prima della sua entrata nell'arena, e vi abbiamo parlato del movimento che in Spagna sta dando del filo da torcere ai pro corrida, al punto che ormai intere regioni della Spagna hanno bandito questo violento spettacolo. Oggi vorremmo raccontarvi la storia di un coraggioso attivista italiano che il suo no alla corrida lo esprime pedalando. Sta per partire il terzo No Corrida Tour, una massacrante traversata in bici che parte da Torino tra pochi giorni, la città del toro, e arriverà a Madrid in pieno agosto. Il protagonista di questa terza edizione del No Corrida Tour è sempre lui, il massiccio Paolo Barbon, che questa trasmissione conosce e segue fino dalla sua prima volta. Sentiamo l'intervista. La formula è la stessa, quindi il viaggio itinerante, le varie tappe, le associazioni di protezione animali francese e spagnole e le manifestazioni insieme a loro. Quello che è cambiato sicuramente è, diciamo così, il potere mediatico, quindi l'interesse che la gente ha dimostrato, anche grazie appunto, come hai detto, a associazioni come la Lea, l'Eleganti di sezione, che ha creduto in noi, ha creduto in questa iniziativa e ci ha aiutato molto con la diffusione in mille modi. Quest'anno il tour è 100% vegano, perché tutti i componenti del tour saranno vegani. Saremo in 4, saremo in 2 a pedalare e 2 al seguito su un'autovettura. Siamo assolutamente al 100% vegani. L'altro mio compagno di viaggio, ciclista, è Pedro, ed è uno spagnolo. Pedro ha appena terminato poche ore fa la Transpirenaica, che è una pedalata in bici di 640 km senza stop per raccogliere fondi per 3 rifugi. Per quanto riguarda il tracciato, è un pochettino più lungo, l'abbiamo prolungato. Si pensava in un primo momento fino a Tordesillas, poi per fortuna Tordesillas quest'anno il Toro della Vega non si terrà, non lo faranno. Il governo di Castiglia e León ha varato una legge per la quale non si può torturare in pubblico, non si può ferire in pubblico il Toro della Vega, e quindi, siccome lo scopo del Toro della Vega era quello, quest'anno non si farà, e quindi la nostra tappa è stata spostata a Madrid, dove c'è Las Ventas, che è l'arena, diciamo, più famosa al mondo e anche la più grande, e quindi il finale sarà lì, assieme appunto ai volontari. Ci sarà molto interesse, molto richiamo pubblico, e quindi siamo contentissimi di questo, e l'obiettivo si spera centrato e l'utilità anche. per quanto dicevi prima, la morte del torero, era un ragazzo giovane di 29 anni, la moglie piange, i parenti piangono, tutti piangono e ci si guarda attorno e ci si chiede ma di chi è la colpa? Vogliamo dare la colpa a qualcuno? Sì, sembra quasi stiano cercando qualcuno a cui dare la colpa. La colpa è della tauromachia, la colpa è di chi va a vedere la corrida, la colpa è di una tradizione che deve sparire. Quindi, se vogliamo, è un po' questo che è successo nella sua drammaticità, un autogol che la tauromachia, gli aficionados si sono fatti, perché comunque sia è ulteriormente saltata alla ribalta con questa tragedia, l'inutilità della corrida e il fatto che oramai è fuori dal tempo, una manifestazione anacronistica che deve sparire, sparirà. Oltre a Leal qua in Italia, là ci sarà il Crack Europe, che è un'importante associazione francese che combatte da decenni una lotta estenuante contro la corrida. Ci sarà la FLAC 66, che è un'altra associazione francese molto, molto importante. Poi ci saranno le Brigate Antitaurine di Marsiglia, BAT, associazioni di non proprio lotta alla corrida, ma vegetariane, vegane, di promozione dello stile di vita vegano. Quindi insomma sono molte le associazioni che si uniranno a noi. A Cáceres, che è la penultima tappa, ci saranno 17 associazioni che collaboreranno per l'evento finale. In Francia c'è Droit des Animaux Sud, che è un'altra associazione di protezione animale. Poi c'è il 219, che si è interessata anche lei, che è appunto quell'associazione grazie alla quale molti macelli sono stati chiusi, quello di Alès per esempio. La nostra preparazione sarà esattamente quella di tutti i giorni, quindi di non mangiare proteine animali, chiaramente con un occhio di riguardo alla frutta e alla verdura, perché il caldo sarà torrido, sarà elevato. Noi, virgolette, regaliamo le nostre ferie alla causa. Ed è anche uno dei motivi trainanti dell'iniziativa che serve ad attirare l'attenzione, perché sicuramente molti francesi e spagnoli diranno come mai gli italiani, che a casa loro la corrida non ce l'hanno, vengono da noi ad agosto, quando potrebbero andare tranquillamente al mare in ferie, a faticare a pedalare. Per seguirci potete andare sul sito della Leal, che ha ampiamente diffuso la manifestazione, oppure sul mio profilo Facebook Paolo Barbon, al quale è legata la pagina Bike for Animal, che riporterà tutto il viaggio con filmati, foto, post e via dicendo. La vita è un'astronauta, mia nonna è un'astronauta, l'amore è un'astronauta. Uno degli hobby ritenuto a torto tra i più innocui del mondo è la pesca. Non so te, Giuseppe, ma io ho spesso discusso animatamente con persone che non riuscivano proprio a capire cosa ci fosse di male nel recarsi a pescare. Forse perché i pescatori generalmente sono persone molto pazienti, che passano ore e ore a guardare un galleggiante nell'acqua, sembra che non stiano facendo praticamente niente, li vedi seduti su uno sgabellino lungo il fiume, sicuramente non hanno l'aria di persone cattive o di persone violente. Eppure, se guardiamo al pescatore dal profondo delle acque, cioè con gli occhi di un pesce, è davvero una disgrazia abboccare all'amo. Il minimo che gli può accadere è di spaccarsi il palato. Il massimo è di morire agonizzando in un ambiente estraneo, praticamente soffocando lentamente un po' quello che accade a noi se affondiamo in acqua senza saper nuotare. Ci ha incuriositi la notizia apparsa sui social riguardante una bagarre tra pescatori e animalisti esplosa a Quarona, in provincia di Vercelli, durante una gara di pesca alla trota sulle rive del fiume Sesia. Un gruppo di attivisti animalisti di META, ovvero Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, e del Fronte Animalista, hanno disturbato i pescatori costringendoli ad abbandonare le canne da pesca e spostarsi dopo una serie di aggressioni verbali. Il diverbio è stato filmato e messo in rete dall'associazione animalista META, proponendolo come un successo, mentre è di diverso parere naturalmente l'associazione La Pesca Il Mare. Valerio Vassallo, tra i partecipanti a questo Blitz, è stato mesi fa protagonista di un presidio sotto gli studi di Radio 24 dopo che il conduttore della Zanzara, Giuseppe Cruciani, aveva scagliato le sue invettive nei confronti della causa animalista e di lui in persona. Noi pensiamo che il cambiamento non passi attraverso minacce e insulti, bensì attraverso relazioni, anche conflittuali, ma su altri livelli. Francamente non pensiamo che quei pescatori oggi abbiano cambiato il loro punto di vista, anzi, semmai immaginiamo che lo abbiano radicalizzato. Protestare è giusto, difendere i pesci sacrosanto, ostacolare e disturbare la pesca può essere una cosa che ha senso, però la questione non dovrebbe mai diventare quella di far perdere la faccia a una singola persona. Chiediamo troppo? Fuochi accesi negli accampamenti nomadi e fumatori d'oppio dall'Oriente sui tappeti. Le visioni riempiranno le mie mani vuote. Cartagine era bella in mezzo ai melograni. E vero poi no. Ogni brutta notizia cerchiamo di darvene una positiva. In questo caso parliamo di galline, cosiddette ovaiole. La buona notizia è che Sodexo, una delle multinazionali più grandi del mondo, leader nei servizi alimentari, si sarebbe impegnata a non utilizzare mai più uova da allevamento in batteria e a lavorare insieme alle organizzazioni che si occupano di proteggere gli animali. Sodexo è uno dei leader mondiali nel settore dei servizi per l'alimentazione e la persona. Fondata a Parigi nel 1966, Sodexo impiega più di 420.000 lavoratori in oltre 34.000 divisioni, sparse in 80 differenti paesi. Probabilmente la conoscerete per via delle sue forniture alle mense a scuola, università, agenzie governative, ospedali e cliniche. A livello internazionale sono 75 milioni le persone che usufruiscono dei servizi Sodexo ogni giorno. La decisione contribuirà al processo di abolizione delle gabbie dall'industria avicola, poiché chiama in causa anche altri distributori, ristoranti, negozi alimentari e altre compagnie, incoraggiando tutti questi soggetti ad adottare politiche simili nell'immediato futuro. Il processo di negoziazione con Sodexo è iniziato nel febbraio 2015 e da allora numerose aziende multinazionali hanno seguito l'esempio adottando la politica cage free. L'annuncio costituisce indubbiamente una vittoria storica che apre la strada all'abolizione definitiva della crudele pratica delle gabbie. Open Wing Alliance è una coalizione internazionale di più associazioni che mira a liberare ogni gallina dalla pratica cruenta e inumana dell'allevamento in gabbia. Nata da una proposta di Human League, la Open Wing Alliance vede al proprio interno realtà come Animal Equality, Human Society International e Compassion in World Farming, tutte unite dallo scopo comune di abolire l'allevamento in gabbia. Al momento l'unica associazione italiana che aderisce alla Open Wing Alliance è Animal Equality Italia. Animal Charity Evaluators ha nominato per ben 2 anni consecutivi Animal Equality come una tra le organizzazioni no profit per i diritti animali più efficienti nel mondo. Messo a dura prova, anche un pragmatico convinto fissa il mondo e perde molto tempo, come me. L'evidenza degli eventi che rinneghi favorisce il trascorrere del tempo e il logorio che lo pervade. Dipendenza da dominio del mio tempo. Il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, a differenza di Sodexo, non utilizza alcun tipo di uovo, né quelli di batteria, né quelli di contrabbasso, né quelli di galline allevate a terra. Ciò nonostante riesce a darci molte gioie, anche oggi ha scovato una ricetta squisita che potete replicare in questi caldi giorni estivi, senza nemmeno accendere il fuoco, dal momento che per la terza volta consecutiva la ricetta della settimana è crudista. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Con la ricetta di oggi completiamo questa trilogia crudista. E non potevamo che concludere in dolcezza. Vi assicuro che non c'è niente di meglio per combattere gli scetticismi di un dessert raw. Perciò prepariamo la torta crudista alla crema di mirtilli. Gli ingredienti per una tortiera da 22 cm di diametro, quindi per 4 o 6 persone, sono 100 g di noci, 250 g di uvetta, 150 g di anacardi, la scorza di mezzo lime grattugiata, 180 g di datteri, 200 g di mirtilli, una banana, un cucchiaio di olio di cocco. Per prima cosa preparate la base tritando l'uvetta assieme alle noci fino ad ottenere una pasta piuttosto collosa. Foderate uno stampo a cerniera di 22 cm con della carta forno e versate il composto, stendendolo su tutta la superficie, pressando con le mani o con un cucchiaio, e lasciate riposare in frigorifero mentre preparate la crema. Sempre col mixer tritate gli anacardi, poi aggiungete la scorza di lime grattugiata e i datteri che avrete precedentemente tritato grossolanamente col coltello. Unite i mirtilli, la banana e l'olio di cocco e frullate fino ad ottenere una bella crema. Versate il composto sulla base e fate riposare in freezer fino al giorno seguente. Togliete dallo stampo e guarnite con altri mirtilli freschi e zeste di lime e fate riposare qualche minuto prima di servire. Dà la possibilità di tornare sul tema dei temi, ovvero la vivisezione. Hanno una nuova casa i 16 macachi dell'Università di Modena. L'Ateneo e il Comune, in attuazione del loro protocollo d'intesa che sanciva la cessazione dei test sui primati non umani, hanno affidato gli animali alla LAV, l'associazione che aveva presentato la migliore proposta per assicurare ai macachi una vita serena. La LAV, con i fondi dei propri soci e simpatizzanti, potrà garantire le esigenze quotidiane degli animali vita natural durante all'interno del centro di recupero animali selvatici ed esotici di Semproniano in Maremma. Ai 16 macachi sono state dedicate due nuove strutture appositamente realizzate, un medico veterinario e due specializzati in primatologia, con tutto il necessario per riprendere confidenza nel gruppo, cibarsi con frutta e verdura, riscaldarsi alla luce del sole e giocare liberamente. In queste prime settimane gli animali potranno contare su un periodo di indispensabile adattamento per sentirsi al sicuro e riconoscere la loro nuova casa. Immaginiamo da quale situazione di costrizione escano questi animali, quindi è logico che gli ci vorrà un po' per abituarsi alla nuova situazione. Il centro di recupero animali selvatici ed esotici di Semproniano lavora da 20 anni per il recupero della fauna selvatica autoctona e come centro di riferimento del Ministero dell'Ambiente per il recupero e la gestione degli animali esotici. Collabora anche con il Corpo Forestale dello Stato per la gestione e il recupero di animali sequestrati. Siamo contenti per i 16 macachi modenesi. Tuttavia, bisogna ricordare che a Modena sono stati ceduti gratuitamente 16 macachi su 17. Uno di loro non è stato liberato, in quanto ormai già inserito in modo irreversibile nella sperimentazione, per la precisione in uno studio per comprendere se il sistema fronto-cerebellare contribuisce ai processi di orientamento. È bello avere una notizia che riguarda i salvati, ma noi siamo dalla parte dei sommersi. Siamo con il cuore e con la volontà dalla parte del 17° macaco che non rivedrà la luce del sole e che probabilmente è anche già morto. E vogliamo ricordare in cosa consistono gli esperimenti sui primati. Le scimmie vengono sottoposte anche per anni a esperimenti tra i più terribili. Vengono provocati i loro traumi cerebrali, vengono immobilizzate nell'apparecchio di contenzione, che è una sorta di sedia che li costringe all'immobilità. Viene creata una breccia ossea artificiale nel loro cranio, vengono inseriti elettrodi per registrare l'attività cerebrale. Vengono studiati i danni al cervello sul comportamento sociale, sono sottoposte poi a esperimenti ottici. Viene impiantata una spirale ottica, uno strumento utilizzato per la registrazione dei movimenti dell'occhio, che viene applicato chirurgicamente dietro la congiuntiva. Sono sottoposte a test cognitivi, a test di resistenza, a test sui disordini motori. Le cellule dei loro cervelli sono sottoposte a studi comparativi. sono sottoposte a test per la somministrazione di agenti antigas nervino, sono sottoposte a vaccinazioni multiple, come per esempio l'AIDS, sono utilizzate in esperimenti sul morbo di Parkinson, sono sottoposte a continui prelievi di sangue, operazioni chirurgiche. I test possono essere svolti anche senza anestesia e al termine degli esperimenti le scimmie vengono sempre uccise. Pensiero causale, imperativo, categorico, ferma distinzione dell'uomo dall'animale. Teorema adiabatico. Ma che musica, che musica, maestro! Questa bella sinfonia, il mondo cambierà. Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo. Per la rubrica musicale parliamo di un artista, una canzone e un libro. L'artista qualcuno sicuramente lo avrà individuato dalle pillole musicali sentite durante la puntata. Tutte riportano infatti a Franco Battiato, anche se ho preferito orientarmi su un Battiato un po' più divertente attraverso qualche collaborazione e produzione un po' fuori dagli schemi. Il brano scelto invece è Gli Uccelli. Per questa canzone Battiato si è ispirato al sublime e coinvolgente poema persiano del 1177, scritto proprio ieri, Il Verbo degli Uccelli, che è stato composto da Farid al-Din Attar, che racconta il viaggio di un gruppo eterogeneo di uccelli alla ricerca del leggendario Sirmug, un uccello che fa parte della mitologia persiana. Dietro questa allegoria, il poeta Sufi vuole raccontare il percorso interiore alla ricerca del divino. Battiato ha metabolizzato questo poema e nel 1981, nella famosa Voce del Padrone, crea una canzone che ancora ci affascina per il testo e la musica, che sapientemente si compenetrano per dare origine a un brano che ci trasporta in una zona di riflessione a contatto con la nostra parte più genuina. Buon ascolto. Scendono impicchiate a terra, no, meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata a terra, no, meglio di aeroplani. Cambiano prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo. Giuseppe, è stata una puntata emozionante per te? L'emozione più forte per me arriva con il servizio della nostra corrispondente da Milano, la diligente e indefessa Roberta Marino. E allora Giuseppe, reggiti forte, perché Roberta ti emozionerà due volte. Infatti ha intervistato Diego Santini, autore del libro Emozioni Bestiali. Ce la fai ad ascoltare il servizio? Ho già il pelo d'oca. Gli animali non se ne approfittano mai. Ecco l'insegnamento più forte che ho imparato in tutti questi anni stando con loro. sono le parole di Diego Santini, veterinario di Crema e autore del libro Emozioni bestiali. Un viaggio nel mondo nascosto dei sentimenti degli animali, come paura, solitudine o solidarietà, attraverso le loro storie e di chi li ha incontrati. Dal cane all'elefante, dal coccodrillo al gallo, dal cerbiatto al cavallo. Un viaggio tra scienza e filosofia, dove in realtà, spiega lo scrittore, l'unica vera guida da seguire è quella del cuore. Sentiamolo. Essendo veterinario e lavorando nel campo dei piccoli animali, è chiaro che una parte importante è legata al cane e al gatto, però tutti gli animali sono importanti, tutti gli animali sono in grado di emozionarsi, di provare dei sentimenti, e nonostante io lavori in un settore specifico, questa mia passione mi ha portato a conoscere animali di moltissime altre specie. Io sono nato in campagna e quindi ho vissuto a contatto con animali fin da piccolo, e quindi anche se poi, diciamo così, lo scopo del mio lavoro sono più i cani e i gatti, io vivo di animali a 360 gradi, mi emoziono con tutti gli animali e in tutti scorgo qualcosa di emotivo, qualcosa che va al di là dell'aspetto esteriore del comportamento, e quindi in questo libro entrano in gioco anche loro, con esperienze dirette, con esperienze riportate da persone amiche, da clienti e anche da ricercatori, quindi diventare etologi, anche se non lo siamo, perché prima di tutto siamo etologi dentro, poi dopo c'è il supporto scientifico, ma se è già così difficile capire le emozioni delle persone, come la scienza può spiegare così bene quelle animali? È stato riconosciuto anche da molti pensatori il fatto che gli animali provano emozioni, che provano sentimenti, che provano dolore, ma per riconoscerli come tali è necessario specificare questa cosa, o potrebbe anche essere sufficiente riconoscere che sono animali in quanto sé e non c'è bisogno di trasporre in loro qualcosa di umano? Io ascolterei di più il cuore nel leggere i comportamenti degli animali, perché se non c'è quello, noi possiamo avere davanti chissà quante dichiarazioni ufficiali, chissà quante prove scientifiche, ma se non lo sentiamo dentro, rimangono sospese, non diventano mai reali, mentre invece il contrario, se partono da noi, allora le prove scientifiche, gli studi diventano solo una conferma di quello che già sentiamo. Il passaggio del racconto dell'esperienza al macello, cosa ha lasciato, che quanto ha, come dire, implicato un certo tipo di ragionamento successivo, questo tipo di esperienza? Quello che gli animali sentono la fine, sanno che cos'è la fine e la avvertono, ed è una sensazione bruttissima, ed è ancora più brutto, perché chiaramente non la si prova, a vedere come l'uomo si approfitta della debolezza degli animali in quel momento. È veramente una cosa che vorrei che nessuno vedesse, ma sarebbe importante che tutti invece sapessero cosa succede. Emozioni bestiali, viaggio alla scoperta dei sentimenti degli animali, di Diego Santini, Pro Edi Editore, 239 pagine. Chiusura, ma come sempre prima vi elenchiamo le voci che avete ascoltato in questa puntata e che sono quelle di Paolo Barbon, Lorenzo Guadagnucci, Roberta Marino, Diego Santini, Franco Battiato, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e l'emozionante Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la nuova puntata di Restiamo Animali sarà per la prossima settimana. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.